Louis Braille, il genio francese divenuto cieco in seguito ad un incidente nel laboratorio del padre, pensate, a soli 3 anni, ha davvero rivoluzionato la vita dei non vedenti, restituendo a loro la luce della conoscenza. E ne parliamo oggi insieme all'avvocato Giuseppe Castronovo, che è presidente della IAPB, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Con chi meglio di lei potevamo ricordare e festeggiare questa data così importante? Indubbiamente è una data molto significativa per i non vedenti italiani e ringraziamo lo Stato per averci dato questa legge che fissa per il 21 di febbraio la giornata nazionale del Braille. In Italia abbiamo più di 300.000 non vedenti e circa 1,5 milioni di ipovedenti. Pensiamo che queste persone dovrebbero conoscere il Braille, perché il Braille che è utilizzato, voglio dire, da più di 30 milioni di ciechi di tutto il mondo, è il metodo che ci ha riscattato dall'ignoranza, dall'emarginazione, dall'esclusione, perché consente a tutti i non vedenti di poter autonomamente, liberamente leggere e scrivere qualunque cosa, qualunque libro, qualunque giornale, qualunque pezzo è scritto in nero. In nero si intende la scrittura dei vedenti. Avvocato, il Braille tra l'altro sta al passo dei tempi e anche della tecnologia. Il Braille è conciliabilissimo con la tecnologia, con l'informatica. Infatti i computer che sono dotati di barra Braille, mentre il vedente attraverso il display può leggere tranquillamente quello che scrive, il non vedente con inserita la barra Braille nel computer può altrettanto leggere quello che altri leggono nel display regolarmente senza difficoltà, e così può accedere anche ad internet mediante la barra Braille. Il Braille oggi, dopo 200 anni dalla nascita di Louis Braille, ripeto sempre, è utilizzato in tutto il mondo dai non vedenti. In Italia abbiamo qualche problemuccio, perché prima veniva insegnato presso i 23 istituti dei ciechi d'Italia. Quando la legge 517 ha reso obbligatorio l'inserimento di tutti gli alunni disabili nelle scuole comuni, gli istituti ebbero una crisi di trasformazione. Certo. E allora questo Braille, anziché insegnarlo presso gli istituti, lo dovrebbero insegnare gli insegnanti di sostegno, che purtroppo non tutti lo conoscono. Non conoscendolo dicono che il Braille, qualcuno dice che il Braille è emarginante, e questo scoraggia anche i genitori. Questo è sbagliatissimo, erratissimo. Il Braille per noi è la vostra scrittura, è la normale scrittura che noi abbiamo come cittadini non vedenti regolarmente. Quindi non dei puntini che marginano, avvocato, ma dei puntini che fanno superare l'handicap. 6 puntini meravigliosi, attraverso questi 6 puntini vengono fuori 63 segni con i quali, ripeto, viene attuato tutto l'alfabeto, la matematica, la musica, tranquillamente. Non emarginano, ma illuminano la vita del non vedente. Avvocato Castronovo, chiudiamo con questa sua bella frase il nostro incontro, e ricordiamo ancora una volta l'importanza di questo sistema di scrittura e lettura. Avvocato, a presto, buona giornata. Grazie. Io ricordo sempre il numero dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, 800 06 8506. Potete come sempre consultare il sito. L'Agenzia per la Prevenzione della Cecità, come sapete, come abbiamo avuto modo di dire tante volte, organizza sempre delle campagne per la prevenzione della cecità, appuntamenti e notizie sul sito della IAPB. Pronto soccorso. Mostratemi come danza un popolo e vi dirò se la sua civiltà è in buona salute. Confucio. E noi siamo di nuovo insieme per parlare di ballo. Arrivano tantissimi messaggi, dottor Confalonieri.

quindi ad avere l'atteggiamento giusto per ballare il tango, dato che la vita ti porta inevitabilmente a cambiare un po' il tuo, certo, atteggiamento nelle relazioni con l'altro. Infatti molti, anche un maestro mi scrive, dice: le donne di oggi fanno fatica a ballare il tango perché è non, vero, sanno più abbandonarsi e farsi guidare dall'uomo. Ma per questo prima io ho suggerito questo genere di danza delle coppie già comunque sia affermate nel tempo, perché, sì, comunque sia si riporta un pochino al ruolo tra uomo e donna. Non voglio dire che debba essere quello, ma è carino riscoprirlo anche in una danza. Sì. Il tango in realtà è un abbraccio, è semplicemente un abbraccio tra l'uomo e la donna. La donna si deve abbandonare completamente alla guida dell'uomo, e l'uomo deve conquistare la fiducia della donna e la porta guida in varie evoluzioni. In realtà non c'è, il tango è molto improvvisato. Molto improvvisato, quindi nasce molto dalla musica e sicuramente dal feeling che c'è tra uomo e donna, e la donna si deve saper sicuramente abbandonare tra le braccia del cavaliere, dell'uomo. Dottor Confalonieri, il cavaliere deve conquistare chiaramente questa questa qua ti voglio. Dottor Confalonieri, era rapito, cosa stava pensando? Stavo pensando che forse non mancano soltanto le donne capaci di abbandonarsi, ma soprattutto gli uomini capaci di guidare, ma certo, questi mancano forse sempre di più. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie al dottor Franco Confalonieri. Grazie, a risentirci a tutti. E adesso dalla Valera ci trasferiamo in cucina, andiamo ai fornelli. Noi, come sempre, non vogliamo limitarci a darvi una ricettina, ma vogliamo farvi conoscere le reazioni che stanno dietro all'esecuzione del piatto e che molto spesso ne decretano successo. Anche oggi in linea con noi per darci una mano la dottoressa Valeria Chiodini, responsabile del Laboratorio Interattivo Alimentazione del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Dottoressa Chiodini, benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, io sono pronta col grembiule e andiamo a fare una bistecca, ma in realtà quando noi mettiamo la bistecca sulla padella avviene una reazione che ha un nome preciso, un po' francese. Avviene proprio la reazione di Maillard, che dà il classico sapore della carne arrosto, aiuta a creare questo sapore che nella carne non esisterebbe. Una reazione che avviene a temperature molto alte tra gli aminoacidi delle proteine e gli zuccheri, e dà proprio il classico sapore alla carne. Quindi la reazione di Maillard per fare la Paillard. Per fare la paillard, per fare un'ottima paillard, ma anche per fare delle ottime patatine, del pane o una torta. Senta, ma tornando alla nostra bistecca, tutte le carni sono adatte per far avvenire questa reazione o ce ne sono alcune più indicate di altre? La migliore è la carne di manzo, perché contiene una grande quantità di zuccheri che favoriscono questa reazione. Altre carni magari sono più povere di zuccheri, quindi il consiglio che vi do è di marinarle con del vino, del limone, che forniscono gli zuccheri necessari. Per cuocere una bistecca in maniera ottimale bisogna metterla in una pentola quando la temperatura è molto molto alta, intorno ai 140 gradi. In questo modo l'imbrunimento inizia sulla superficie della carne, mentre l'interno si conserva morbido perché c'è acqua e quindi non può raggiungere temperature alte. Utilizzate magari anche una padella di metallo o di ghisa, evitiamo le antiaderenti perché non favoriscono questo tipo di reazione. La mettiamo sul fuoco, la padella la lasciamo riscaldare per almeno un paio di minuti, e se la carne è piuttosto magra magari la spalmiamo con dell'olio, utilizziamo anche le mani e spalmiamo la superficie della carne con l'olio e la mettiamo sulla padella bollente. Allora dottoressa, io l'aspetto anche lunedì pronta con il grembiulino, ci trasferiremo come sempre ai fornelli e ne impareremo delle belle. Certo, mi preparo. E adesso voglio parlarvi di un decalogo a misura di bambino. Voglio farvelo conoscere perché sono certa possa essere una valida guida per riconoscere, trattare e prevenire le malattie causate da allergia. È un documento scritto a più mani dagli esperti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e da Federasma, e viene presentato proprio oggi in occasione della quinta edizione della giornata del bambino allergico. Per questo ne parliamo oggi insieme al professor Giovanni Cavagni, consulente allergologo al Bambino Gesù di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. L'allergia è in aumento, professor Cavagni, e sta assumendo i contorni di una vera e propria malattia sociale. Per questo è necessario informare e soprattutto guidare i familiari dei bambini allergici a gestire e ad affrontare bene questo problema. Certo. certo, perché l'allergia è una reazione esagerata alle normali sostanze inoffensive, come possono essere i pollini, i peli d'animali e gli alimenti. Il perché il sistema immunitario reagisca in modo così esagerato non è del tutto conosciuto, perché sono meccanismi pure legati a più fattori, però la reazione che si sviluppa poco tempo dopo il contatto con una di queste sostanze viene chiamata reazione immediata e è dipendente dalla presenza nell'organismo dei soggetti geneticamente predisposti di anticorpi chiamati immunoglobuline. Professore, io vorrei sottolineare che l'allergia è familiare, quindi se i parenti più stretti sono allergici, specie se sono i genitori, il bambino ha un alto rischio di soffrire di allergia nell'infanzia sino all'età dello sviluppo. Così facendo, professor Cavagni, noi abbiamo evidenziato i bambini a rischio. Andrei allora a evidenziare i segnali che le mamme devono, i genitori devono tenere particolarmente sott'occhio. Voglio che le mamme di Radio 24 siano ben informate e pronte a raccoglierli. E noi siamo qui per farlo. La comparsa immediata in bambini che hanno appunto dei genitori già allergici, di disturbi della pelle, con intenso prurito tipo eczema o orticaria, nelle vie respiratorie con starnutazioni, raffreddore forte con scolo acquoso, l'asma con il disturbo, con il soffocamento che il bambino ha e che è il disturbo più debilitante, o la congiuntivite agli occhi, o i disturbi digestivi come può essere il vomito e la diarrea, o tutti assieme, come è l'esempio più grave, più difficile da tenere in considerazione, la reazione anafilattica a contatto con la stessa sostanza, deve essere tenuto in considerazione e sospettare una causa allergica. Però, professore, se è vero che il carattere allergico rimane per tutta la vita, è anche vero che l'organismo del bambino allergico è in grado di costruire forme di difesa, diciamo così, che gli consentono di poter diventare tollerante nei confronti della sostanza a cui è allergico. Quindi questa, se vogliamo, è una buona notizia. Sicuramente, perché il bambino, se ben gestito sotto il controllo periodico dello specialista, ovviamente su consiglio del pediatra, permetterà di accertare i miglioramenti ottenuti, e su questo consigli più precisi possiamo averli sui nostri siti dell'Ospedale del Bambino Gesù e delle associazioni dei bambini asmatici come Federasma. Professor Cavagni, andiamo al nostro decalogo, no? Ormai me ne sono un po' appropriata, vostro, l'avete scritto voi, ma serve a noi genitori. Come suggerisce e insegna il decalogo, se si sospetta che il bambino possa soffrire di disturbi a contatto di una sostanza allergenica, deve essere consultato il pediatra, il quale farà una serie di esami. Ma quali esami e soprattutto, professore, a partire da che età? Gli esami devono essere fatti quando inizia il disturbo, per cui se il bambino ha un'allergia alimentare nel primo anno di vita con i sintomi come li abbiamo descritti in precedenza, possono essere fatti anche a pochi mesi di vita. I test cutanei, i cosiddetti prick test, il dosaggio delle IgE specifiche nel sangue, oggi abbiamo tra l'altro delle possibilità molto importanti per poter diagnosticare anche con le singole molecole e quindi riuscire a individuare e dimostrare qual è la sostanza che provoca i disturbi. Se poi il bambino è asmatico, la raccomandazione nostra è quella di seguirlo con la spirometria, con le prove di funzionalità respiratoria, perché questo ci consente e di dimostrare la presenza dell'asma e di seguire la terapia efficace. Assolutamente devono essere bandite tutte le prove di cosiddette di intolleranza, di indagini alternative, perché queste non hanno nessuna valenza scientifica e sono del tutto inutili, perché danno delle risposte estremamente variabili e false. Professore, se il bambino è allergico, quindi la diagnosi è stata fatta, che cosa fare? Nel decalogo che avete presentato oggi ci sono proprio un po', tra virgolette, istruzioni per l'uso. Beh, in innanzitutto il fumo di sigaretta, di tabacco va esclusivamente bandito sia alla mamma durante la gravidanza e l'allattamento o negli ambienti chiusi dove vive il bambino. Il fumo poi nell'adolescenza dovrebbe essere, l'adolescente dovrebbe essere educato a non fumare perché c'è non solo il rischio di sensibilizzarla alle allergie ma di provocare l'asma e quindi di aggravare la situazione allergica. Poi per chi ha una allergia accertata ad alimenti dove già ha avuto delle reazioni di tipo anafilattico, ovviamente va garantito di non assumere l'alimento e il farmaco in causa, perché ne va della vita. Noi abbiamo avuto già casi di mortalità in questi casi, quindi l'informazione è estremamente indispensabile e allargarla a tutte le persone che sono a contatto del bambino. Quindi professore, se il bambino ha già sofferto di reazioni molto gravi a contatto dell'alimento o anche del farmaco allergizzante, deve essere proprio garantita la fornitura gratuita del farmaco salvavita per prevenire lo shock. È certo, l'adrenalina che oggi è in una penna autoiniettante facile da usare anche nel bambino piccolo dal genitore, sicuramente questo consente di garantire di poter arrivare al primo pronto soccorso e di garantire la vita del soggetto, specie se è un allergico ai veleni di insetti. Inoltre il bambino deve avere un ambiente di casa, se allergico agli acari della polvere, dove sia sgombro di tutte quelle sostanze che possono provocare un accumulo di acari e quindi avere una stanza arieggiata dove possa vivere bene. Se il bambino è allergico ai pollini e stiamo per entrare in questa stagione, è bene consultare il calendario pollinico per iniziare con i provvedimenti preventivi e l'uso di farmaci che possono impedire al bambino di avere i disturbi di rinite e asma e così permettergli di vivere all'aria aperta come i coetanei senza avere quei fastidiosi disturbi agli occhi, al naso e l'asma. E a proposito di aria aperta, professor Cavagni, ricordiamo che ai bambini, anche ai bambini asmatici, è consigliata l'attività sportiva. Non devono vivere sotto una campana di vetro, ma devono fare una vita assolutamente uguale a quella dei loro coetanei. Sicuramente, proprio il motivo del decalogo è quello di ricordare che i bambini allergici, se ben trattati, se ben seguiti, possono e devono perché lo aiutano anche dal punto di vista, vengono aiutati anche dal punto di vista generale dell'accrescimento normale, le attività ricreative, del gioco, dello sport, adeguati all'età come gli altri bambini. Inoltre è bene che i bambini ovviamente possano i bambini allergici possano frequentare le scuole in ogni ordine grado e avere, specie per i bambini con allergie più gravi, ambienti idonei sia all'interno che all'esterno del plesso scolastico, che i soggetti allergici agli alimenti abbiano un rigoroso rispetto del regime alimentare con quando è documentata una grave allergia alimentare. L'impiego poi di farmaci specifici prescritti e certificati necessari nella cura quotidiana dell'emergenza vanno somministrati anche a scuola da un personale opportunamente addestrato. Professor Cavagni, allora io la ringrazio molto per essere stato con noi, rimando i nostri ascoltatori per saperne di più al sito dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù www.ospedalebambinogesù.it oppure al sito di federasma.org. Professor Cavagni, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a lei e ai suoi ascoltatori. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, mi raccomando, questa casa non è un albergo a mezzogiorno, mentre torniamo ad occuparci della nostra salute e del nostro benessere lunedì dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.